si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Subito i nostri contatti, se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma è @ si può fare 24, mio @ Ale Maurizi. Più avanti apriremo anche il numero verde per i vostri interventi, per commentare quello che sentite, anche per partecipare come ogni domenica al contest sul personaggio della settimana. Ma andiamo ad iniziare. The good news! E questa volta siamo a Roma. Anche il sindaco della capitale, Ignazio Marino, ha deciso di decurtarsi lo stipendio qualche giorno fa del 10%. Ha detto: mi aspetto adesso un analogo sforzo anche da parte di tutti coloro che hanno a cuore la città, soprattutto assessori e insomma dirigenti apicali, ha detto, delle aziende di Roma capitale. Marino ha ricordato anche i risparmi che sono stati effettuati, il 10% del budget a ciascun assessore per incarichi di staff, la centralizzazione degli acquisti che dovrebbe far risparmiare a regime, pensate, 250 milioni di euro l'anno solo per la razionalizzazione degli acquisti da parte del Comune di Roma. La notizia insomma è questa: Marino si taglia lo stipendio del 10%, non c'è una delibera, una legge che obbliga anche gli assessori a farlo, però insomma prendiamo atto di questa iniziativa romana. E allora andiamo invece sui giornali di oggi a prendere spunti, a vedere soprattutto come si parla del giuramento del governo e dell'esordio di tutti i ministri. C'è anche spazio per quello che è successo in Ucraina. Leggiamo sul Corriere della Sera: Kiev, oppositori al potere, liberata Yulia Tymoshenko. Crolla il regime in Ucraina, il presidente Viktor Yanukovych, rimosso dal Parlamento, si è rifugiato al confine russo. È un colpo di Stato, ha detto. Poi feste nella capitale, anche se il paese resta diviso, con la parte orientale sempre vicina alla Russia. Liberata l'ex premier Yulia Tymoshenko. Questo è il Corriere della Sera, che però naturalmente si occupa a centropagina, in prima pagina: Renzi, giù le tasse sul lavoro, le prime mosse, accelererò i tagli sulla spesa pubblica. Poi c'è anche Sanremo, il controvento di Arisa, Ligabue scalda il festival, Crozza sull'Italia tra bellezze e disastri. Ma a proposito di Renzi, vediamo come il Corriere per esempio tratteggia l'universo, le idee di Matteo, dove tutto si mescola e si rottama poco. Per esempio, quali sono i suoi miti? Si va da John Fitzgerald Kennedy a Steve Jobs, da Nelson Mandela a Romano Prodi, passando per Giorgio Lapira. Chi sono i suoi consiglieri? Oscar Farinetti, lo sappiamo, Andrea Guerra, l'amministratore delegato di Luxottica, ma anche Antonio Campo dell'Orto, il primo direttore di MTV Italia, Luca Sofri, il giornalista, Marco Cerrai, un suo consigliere storico. Chi sono i VIP, diciamo, che stanno dalla sua parte? Pif, che si è visto anche a Sanremo, Paolo Virzì, Priatore, Cesare Prandelli, il CT della Nazionale, Giovanotti, ma anche Bruno Cucinelli, lo stilista, imprenditore che nelle sue aziende dà un sacco di benefit ai suoi dipendenti, così come Renzo Rosso, patron di Diesel, che anche lui fa tra solidarietà e beneficenza investe parecchio, aziende che vanno bene, quindi se lo possono permettere, direte voi, già. Poi andiamo invece a vedere alcuni casi particolari che riguardano insomma i neoministri. Per esempio, partiamo con Marianna Madia, che sarà sicuramente al centro di tante attenzioni. Intanto sulla stampa, intanto perché lei e Maria Elena Boschi sono le due amazzoni di Matteo, sono anche due belle ragazze e l'attenzione dei giornalisti si concentra anche su questo. Però che è successo ieri con la Madia? È successo questo: ha paura, ministro, mentre scendeva le scale di Palazzo Chigi. Se anche l'avessi non ve lo direi, è un errore che ho già fatto una volta. Enrico Lucci delle Iene le si mette alle costole. Perché lei è ministro e io no? Solo perché lei ha la pancia? Poi a un certo punto Lucci si sfila la camicia dei pantaloni e mostra la sua pancia. Orribile, scrive il giornalista della Stampa, il modo ma anche la pancia. E così la ministra è ministra, la ministra a quel punto a cercare ai giornalisti, indispettita e infastidita da Lucci. Aspetta una bambina, dunque nella squadra di governo ci sono più donne che uomini. Certo, la nonna sarà di grande aiuto. Poi a quel punto Lucci la molla, lei si rilassa e dice: ieri un vostro collega mi ha mandato un SMS con l'indirizzo del ministero, questa volta vedrò di non sbagliare. Perché, e infatti questo è il titolo della stampa, Madia stavolta non sbaglierò ministero, perché è rimasta famosa una sua puntata per parlare con il ministro dello sviluppo, ma era andata al ministero del welfare, questo almeno racconta una leggenda metropolitana che però lei ieri in qualche modo ha confermato. Il ministro inesperto che disse a suo tempo: metterò tutta la mia inesperienza al servizio del Parlamento, quando fu eletta neoparlamentare. La cerimonia della campanella, sempre sulla stampa, ci sono, sapete, gelida cerimonia, neanche uno sguardo tra Renzi e Letta. La stampa è andata a recuperare le foto delle vecchie cerimonie e in effetti mai si era vista una cosa del genere. L'insediamento di Letta con Monti, sorrisi, l'insediamento di Monti su Berlusconi addirittura, che poi sono montate campagne di stampa per descrivere il colpo di Stato, eccetera. Monti e Berlusconi entrambi sorridenti. L'insediamento, la cerimonia della campanella del 2006, Prodi che entra al posto di Berlusconi, sorrisi anche qua, vabbè, insomma, dovevamo vedere anche questo. Letta se l'è presa, poi ha scritto in un tweet: lascio Palazzo Chigi, ora uno stacco via da Roma per prendere le migliori decisioni sul futuro. Qualcuno ha interpretato questa cosa insieme ad altre come un possibile movimento politico, smottamento politico guidato da Letta, che chissà, magari vuol fondare un partito, lasciare il Partito Democratico, chissà. È interessante vedere anche come un ex ministro si sta muovendo in queste ore, Mario Mauro, ex ministro della difesa, che è così, senza proprio problemi di faccia, spudoratamente, siccome non è più ministro, adesso mette in discussione la fiducia al governo, anzi dice: sì, voteremo la fiducia, ma solo per rispetto di Napolitano. Senatore Mauro, domani al Senato voterete la fiducia a Renzi? Le ragioni descritte da Giorgio Napolitano nell'intervento che ha accompagnato la sua rielezione a Presidente della Repubblica nell'aprile del 2013 sono l'unica ragione per la quale voteremo la fiducia. La voteremo solo ed esclusivamente per rispetto dell'appello di Napolitano. Ma insomma, quindi dopo la fiducia entrerete nella maggioranza o no, o starete all'opposizione magari votando caso per caso? Ad oggi la sola ragione è quella che ho descritto e ai gruppi parlamentari proporrò questo comportamento. I gruppi parlamentari sono 9 i senatori ex montiani che stanno con Mauro e che potrebbero essere tentati di non votare la fiducia al Senato facendo un bello sgambetto a Renzi. La vostra posizione si addolcirebbe ottenendo un sufficiente numero di viceministri e sottosegretari? La questione di fondo in questo momento è una sola: rispondere all'appello del Presidente della Repubblica, la sola parola chiara tra tante dichiarazioni ad effetto. Io ci scommetto quello che volete che quando scatteranno le nomine dei sottosegretari e Mauro diventerà sottosegretario o otterrà un sottosegretariato, queste frasi diventeranno acqua passata. Sul Sole 24 Ore di oggi va bene, le riforme in casa per trattare la flessibilità in Europa. Il punto di vista del quotidiano Sole 24 Ore è questo: dobbiamo fare le riforme per avere più flessibilità in Europa e avere politiche espansive. Poi c'è l'importante intervista al ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Sono un ministero economico, dice Franceschini. E questa è una notizia, insomma, importante questo aspetto che ieri ha detto Franceschini. Il Sole 24 Ore l'ha accolto subito. Ecco l'intervista. Dice Franceschini: lei, la domanda è: lei ci crede a quello che ha detto ieri, cioè che lei guiderà il più grande ministero economico d'Italia, cioè il ministero dei beni culturali? Nessuno forse l'aveva mai messa così direttamente. Cioè, assolutamente sì, penso che il ministero della cultura sia in Italia come quello del petrolio in un paese arabo. Le nostre potenzialità non sono soltanto i beni culturali, come volano del turismo, settore dove c'è un enorme investimento da fare. La nostra è anche, e questa è una cosa che non ho mai sentito personalmente, è anche una condizione che ci permette di attrarre investimenti, dice Franceschini. Se un investitore deve investire nella parte alta della filiera produttiva dove conta meno il costo del lavoro e più la capacità di innovare, e deve decidere dove costruire la propria azienda, se in un brutto posto o in uno bello come l'Italia, sceglierà sicuramente di investire da noi. Poi Antonello Chierchi gli dice: ma siamo sicuri, ci sono le tasse in Italia, la burocrazia. Sì, sì, tutto vero, dice Franceschini, ma questi ultimi sono problemi da risolvere. Vediamo se li risolviamo, altrimenti siamo punto e da capo. Correnzi ha parlato di questa impostazione che vuole dare al Ministero dei Beni Culturali? Sì, sa perfettamente che su questo tema bisogna scuotere il paese. La cultura è la nostra risorsa, il nostro petrolio, ripete. E come vede il ruolo dei privati? E questa è l'altra notizia. Sono aperto a questo tema, col buon senso si può trovare una soluzione che dimostri che non c'è alcun contrasto tra la tutela del patrimonio da un lato, quindi il ruolo pubblico, e una maggiore dinamicità, una più incisiva capacità di utilizzarlo e valorizzarlo. Bisogna trovare un equilibrio, dice Franceschini, quindi sì al ruolo dei privati nella gestione dei beni culturali, purché aiutino a investire e a sfruttare meglio questo importante patrimonio culturale. E ricordiamoci anche che il Ministero dei Beni Culturali è stato accorpato con una legge a quello del turismo, quindi insomma un ministero di maggiore peso. C'è anche un politico che dice, tra l'altro in questa intervista, conosco i meccanismi che bloccano e rimpallano l'attuazione dei decreti eccetera, vigilerò affinché i beni culturali non siano trattati più come un ministero di serie B. Dichiarazioni, staremo a vedere. Adesso facciamo una breve pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. Portare la tracciabilità da 1.000 euro ad almeno 5.000 euro. Perché chi ha ancora soldi da spendere e voglia di farlo possa farlo liberamente. E non applicare lo spesometro fino a una spesa di almeno 30.000 euro, che chi vuole cambiare ad esempio l'auto possa farlo senza una settimana dopo sentirsi chiedere il perché e il come ha fatto, dove li ha presi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. A corollario di quanto abbiamo letto sino ad ora sui giornali, mi piace ricordare una frase tra le tante di ieri dei neo ministri dopo il giuramento, una che almeno è andata sul terreno concreto. Stefania Giannini, neo ministro dell'istruzione, ha detto: la priorità è investire nell'edilizia scolastica. Una volta tanto qualcuno, un ministro che dice una cosa concreta, poi naturalmente misureremo le pratiche rispetto agli annunci, ma quando l'annuncio è una, appunto, un'ipotesi di lavoro concreta, ecco, almeno diventa più misurabile e fa piacere, perché sicuramente credo sia difficile smentire il ministro Giannini che quella non sia una priorità, l'edilizia scolastica. Ma adesso è il momento di andare a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Ritroviamo come ogni domenica Armando Massarenti. Buongiorno Armando. Buongiorno, buona domenica a tutti. Carissimo Armando, allora oggi da dove vogliamo partire per ingolosire i lettori sulle tante pagine, gli approfondimenti, i dibattiti importanti, quelli che contano nel mondo della cultura, Armando? Insomma, la ricchezza poi che abbiamo in queste pagine è come sempre molto alta. Beh, a proposito di scuola, intanto ricordiamo che settimana scorsa avevamo proprio lanciato attraverso Lorenzoni una specie di appello sulla scuola, e fa molto piacere che il neo ministro, certo, abbia a cuore questo aspetto. C'è un mio intervento anche questa settimana nella mia rubrica che riguarda in realtà l'insegnamento della filosofia, che è un'eredità che si porta dietro il nuovo ministro da quello precedente, che aveva ridotto di molto l'insegnamento della filosofia. C'è un appello dalla parte dell'editrice della scuola che è stato firmato da moltissimi filosofi, proprio per sensibilizzare il nuovo ministro all'insegnamento della filosofia. Quindi c'è un mio intervento che parte però da una piccola critica a questo appello, cui pure aderisco. L'appello si intitola "Contro l'ideologia tecnocratica, ripartire dalla filosofia per ricostruire l'Italia". Ecco, questa ideologia tecnocratica penso che non sia qualche cosa di reale. Io penso che semplicemente si sia voluto ridurre l'insegnamento anche per adeguarsi alle norme europee, però ciò non toglie che sia molto grave non considerare la filosofia come qualcosa di assolutamente centrale. Quindi l'appello è rinnovare la scuola facendo della filosofia qualcosa di assolutamente centrale, perché è solo da qui che può partire quella capacità critica attraverso proprio gli strumenti di una filosofia in realtà rinnovata, che non sia in contrasto né con la tecnologia né con la scienza, ma che appunto ci porti ad essere un paese moderno, a formare i cittadini di domani. Quindi in scuole migliori, anche dal punto di vista delle costruzioni, certo, come giustamente dice. Ma poi dipende anche quello che ci facciamo dentro, è ovvio. E poi ovviamente, no, certo, ma comunque la bellezza degli edifici, la funzionalità è importantissima, perché altrimenti in una situazione di degrado esatto, diventa tutto poco credibile. Ecco, detto questo, poi ovviamente gli argomenti sono tanti. Abbiamo una terza pagina su Soren Kierkegaard, dove Valerio Magrelli, il poeta famoso, comincia la sua collaborazione con Il Sole della Domenica. Qui si tratta di un articolo assai raro di questo filosofo esistenzialista ante litteram, Soren Kierkegaard. Poi abbiamo Massimo Firpo che ci parla della primissima edizione del Corano del 1547 a Venezia, e poi abbiamo Massimo Bucciantini che parla di un libro di uno dei nostri massimi storici della scienza, Paolo Galluzzi, che parla dei mondi paralleli di Cesi, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, e di Galileo Galilei, che faceva parte pure dell'Accademia. Poi ancora Mario De Caro che ci parla la neuroetica, dove sostiene una tesi, o meglio riporta una tesi di un libro importante di Gilberto Corbellini e di Elisabetta Sirgiovanni. Il libro si intitola Tutta colpa del cervello, appunto un'introduzione alla neuroetica, dove la tesi è che dovremmo rivedere un pochino tutto il nostro modo di concepire le colpe e le punizioni, e anche quindi tutto il nostro sistema giudiziario carcerario. Insomma, sono tanti temi. Abbiamo addirittura una recensione di un libro molto curioso, un esordiente 93enne che si chiama niente meno che Giuseppe Sgarbi. Il libro si intitola Lungo l'argine del tempo, memoria di un farmacista. L'argine del tempo è l'argine in realtà di un fiume reale, cioè sono memorie sulla riva del Po, e Giuseppe Sgarbi non è altro che il padre farmacista di Vittorio Sgarbi e di Elisabetta Sgarbi, cioè del critico d'arte e della direttrice. A proposito, Armando, della Bompiani. A proposito di esordienti, la copertina di oggi è davvero prestigiosa. Io lo saluto intanto, perché abbiamo il grande piacere di averlo con noi, Raffaele La Capria. Buongiorno. Buongiorno. Vi sento un po' male, ma e a volte le linee telefoniche, la voce più chiara. A volte le linee telefoniche ci tradiscono. Armando, ti pregherei di introdurre per gli ascoltatori il motivo per il quale oggi avete il grande onore di ospitare in prima pagina Raffaele La Capria. Sì, perché l'esordiente ovviamente non è lui, ma è il lettore che lui ha avuto la grazia di voler pubblicare in un epistolario, perché lui stesso, Raffaele La Capria, ha tenuto con lui, con questo lettore che si chiama Beppe Agosti, e anche in parte con la moglie Marilena, proprio così, con un epistolario che è nato, ma ce lo racconterà lui adesso, in maniera naturale, grazie all'ammirazione. Certo non era l'unico lettore, ma poi c'è stato un incontro, c'è stata una certa, come dire, attrazione da parte di questa bella moglie bergamasca, e quindi è nato questo scambio che viene pubblicato dall'editrice Archinto, e dove La Capria, lo dice lui stesso nell'introduzione che noi pubblichiamo, dice di essersi lasciato andare in giudizi proprio grazie a questa confidenza che ha avuto con questi lettori, a giudizi, a cose che forse non avrebbe mai scritto se non sollecitato da, ecco, questa bella amicizia. La Capria, se ci racconti lei stesso come ha vissuto e come ha scritto di questa esperienza. Beh, questa è un'esperienza curiosa, perché io volevo corrispondere con un lettore sconosciuto e che fosse al di fuori della mia cerchia, nel senso al di fuori degli addetti ai lavori, con un linguaggio molto semplice, e questo mi interessava anche perché, come lei sa, io sono un elogiatore del senso comune e mi piaceva cercare nella espressione letteraria anche una lingua per comunicare con chiunque in modo molto poco critico, nel senso stretto della parola, ma in senso umano, se la parola mi è lecita. Certo, Armando, abbiamo pochi secondi per chiudere, purtroppo, ahimè, tra poco c'è il giornale radio. Intanto io voglio davvero ringraziare la Capria per essere stato con noi questa mattina. Sono io che ringrazio. Grazie. Voi per aver dato un posto così importante a un epistolario che, insomma, credevo fosse casuale, invece ho visto che è stato accolto così bene da voi. Grazie ancora. Armando, 10 secondi per chiudere. Ma sì, noi abbiamo dato la copertina perché è scritto molto bene, c'è cioè una grazia naturale non solo della Marilena di cui parla la Capria, ma anche proprio nella prosa e nei contenuti, che sono appunto di grande semplicità ma di grande efficacia. Tutto questo, scusa, dobbiamo chiudere, purtroppo abbiamo il giornale radio, tutto questo e molto altro sul Sole 24 Ore, il domenicale, l'inserto culturale, oggi in edicola. Noi ci troviamo dopo il giornale radio, grazie a tutti, a dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta. Mi raccomando, tra pochissimo potete commentare quello che sentite, quello che avete sentito. Siamo partiti dai giornali di oggi con tutti i neoministri, il giuramento del governo Renzi. Tra poco parleremo, il primo argomento è questo: nasce il comitato dei comitati antimovida. Insomma, se avete problemi con il bar sotto casa, avete una onda, è nato a Milano in questi giorni il comitato dei comitati antimovida. Sentiamo quali sono le loro idee e se non fanno arrabbiare troppo invece quelli che la sera una birra se la bevono volentieri. Altro titolo: nelle cooperative a lavorare anziché in prigione, il riscatto di 44 giovani detenuti, un progetto che viene da Genova, ne parleremo tra poco. 800 24 00 24, tra l'altro potete chiamarci per continuare a raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Il contest di oggi però è associato al personaggio della settimana, dovete indovinare, il primo indizio tra pochi secondi dopo il traffico. 800 24 00 24. Si può fare cronache da un paese migliore. No more pretending. Buongiorno anche a Carlo Gabardini. Buongiorno, buongiorno. Ciao, a tutti gli ascoltatori, Carlo. Buongiorno Alessio. Ben ritrovato. Grazie. Andremo anche a Sanremo, poi. Sì, infatti vorrei a vedere com'è andata. Possiamo dire una cosa? Anche due. Bisogna fare una moratoria, diciamo. Quando c'è nella settimana di Sanremo, sì, secondo me, voi giornalisti, perché io, sì, non sono un giornalista, ma le trasmissioni dovrebbero iniziare almeno un'ora dopo. Perché ieri all'una di notte ero lì che dicevo: e dillo sto vincitore! Io domani ho Radio 24. Devo svegliarmi alle 7, non è possibile. Pensa che io sono andato a letto prima e l'ho scoperto stamattina dai giornali, perché a un certo punto io pensavo ho visto chi erano i tre finalisti Ma siccome sto facendo lo stage da giornalista, ho detto sono in trincea, devo assolutamente non posso andare a dormire senza sapere chi ha vinto il Festival di Sanremo. Poi è un argomento di tua competenza, insomma, hai fatto i commenti in giro qua e là nelle, dov'è che fa, macchia radio, sì, radio streaming, ho fatto che non è in concorrenza commento con noi, no, perché un'altra cosa. Però, assolutamente, quindi ho lasciato a te di vedere. Bellissimo, e di commentare. Bello, di commentare. Molto bello. Quindi ero la tua prima linea, diciamo, in qualche modo. Esatto. Tra poco poi sentiremo anche Marta Cagnola. 800 24 00 24. Ascoltatori, se avete commenti anche su questo, va benissimo. Naturalmente, il Festival allo Specchio dell'Italia, figuriamoci. Sanremo è perfetto. Perfetto. Possiamo dare anche il primo indizio di oggi. Questa volta lo do io, vai. Mi sembra ottimo. Lo vai do tu. Io. È questo: il personaggio della settimana ha detto in settimana una cosa che in molti, forse tutti, volevano sentirsi dire. Questo è il primo indizio, è un po' largo, ma sapete, si inizia così. Non l'ha detto cantando, possiamo almeno dire che non l'ha detto cantando. Cioè questo pensiero specifico non l'ha detto cantando, magari altre cose sì. giusto? 800 24 0024. Tra poco cominciamo con gli ascoltatori. Esatto, caro. Volevo dire questa cosa, che visto che spesso ci tacciano di parlare troppo di cannabis, di marijuana, c'è anche mia mamma che è preoccupata perché sente dalle sue amiche che dicono: ma tuo figlio parla in radio di liberalizzare la marijuana, ma com'è possibile? Ma poi a Radio 24 non è proprio possibile. Volevo dire che l'altro giorno, giovedì, ero in treno perché andavo a Torino a tenere un laboratorio alla scuola Holden, e mi sono imbattuto in una bellissima lettera di Umberto Veronesi, che sulla prima pagina di Repubblica scrive: vorrei che si riaprisse anche in Italia il dibattito per la liberalizzazione delle droghe leggere. È arrivato il momento di superare le barriere ideologiche e ammettere che proibire non serve a nulla. La sentenza della Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi. Poi fa anche un bel discorso su quante persone uscirebbero di galera, perché il 40% diciamo dei carcerati sono legati a reati di droga, e di questi moltissimi legati a droghe leggere. E aggiunge: ora si stima che circa il 50% dei nostri giovani faccia uso di cannabis, oltre a molti adulti. Significa quindi che metà dei giovani italiani è criminale? Si chiede sempre Umberto Veronesi. Forse sulla che prima no. pagina. Esattamente. Mettere sullo stesso piano droghe leggere e pesanti è antiscientifico. Questo lo dico, Alessio, anche per scagionare sì. te, perché abbiamo avuto telefonate. Diciamo che da oggi un po' tutti giriamo con questa lettera in tasca. Che ovviamente non serve a evitare multe o sanzioni, però diciamo nel caso che ti arrestano perlomeno serve a passare la noia da leggerla, per moralmente leggerla. E scientificamente, perché ci avevano detto: ma come parlate di queste cose senza esatto. pezzi da poi? Adesso che un grande scienziato come Veronesi ha preso una posizione del genere, siamo più tranquilli. Grazie, esatto. caro. E aggiungo anche un pezzo per giustizia, diciamo, nei confronti anche di Veronesi. Scrive anche: ma se proibire è deleterio, legalizzare non basta, bisogna educare e trasmettere il principio non che la droga è illegale, ma che ha un valore socialmente e individualmente negativo. È anche il momento per ridare alla cannabis lo spazio che merita nella cura del dolore, come noi. Diciamo, lui ha preso il discorso fatto. Dall'altra parte, noi siamo partiti dalla cura del dolore per arrivare fino a... rimanendo sempre nel mondo cannabis, volevo dire che in Francia cercano volontari fumatori di spinelli, e non è una battuta. All'ospedale universitario di Nancy stanno facendo una campagna di reclutamento rivolta ai consumatori cronici di marijuana, perché vogliono studiare gli effetti sul cervello. Ma do subito anche la brutta notizia: questa era la buona notizia, la brutta notizia è che è sold out, tutti i posti sono già occupati. Finisco solamente dicendo una cosa, che ieri siamo impazziti tutti perché è crollato WhatsApp. Ricordiamo, WhatsApp è il sistema di messaggistica istantanea, sì. gratuito, che quindi non si appoggia a un operatore telefonico, ma usa la rete che usiamo tutti tantissimo. Ieri per 4 ore c'è stato il blocco totale. Infatti, ho visto che erano tutti impazziti, che scrivevano tu che ci sei dentro fino al collo. Io non lo uso. Cosa è successo? In realtà non si sa bene. La vera notizia, come tutti sappiamo, è che Facebook si è appena comprato WhatsApp per 19 miliardi, ma tipo l'altro ieri. E qui a Radio 24 lo sapranno tutti, visto che ci sono un sacco di economisti. Sono io l'unico non laureato della zona. E quindi ci si chiede che cosa sia successo. E direi che escluderei che sia un caso, che proprio 2 giorni dopo che è stato acquistato da Facebook. Quindi esiste un'ipotesi che dice semplicemente sono caduti i server. Un'altra ipotesi è che in realtà sia un attacco degli hacker, perché in realtà c'è una grossa differenza. Il sistema di messaggistica del WhatsApp, questo me l'hai spiegato prima, è importante. Esatto, il sistema di WhatsApp è molto più corretto, perché nel momento che il messaggio arriva al destinatario, WhatsApp lo cancella dai propri server, cosa che diciamo Facebook non fa e molti altri non fanno, perché in realtà i dati di questo tipo quindi ci si può sbilanciare di più come in una conversazione vera, perché poi viene cancellato. Invece su Facebook resta tutto. Esatto, e quindi diciamo gli hacker che non hanno preso molto bene questa acquisizione da parte di Facebook di WhatsApp potrebbero aver attaccato i server di Facebook. Poi diciamo che è lo stesso, la cosa anche divertente è che lo stesso, nel senso che lì tutti si sono detti vabbè, passiamo alla chat di Facebook, perché fino all'altro ieri non si poteva dire questa cosa se eri uno che usava WhatsApp. Adesso sono la stessa cosa, eppure non è girata questa cosa, perché la stessa WhatsApp continuava a mandare messaggini dicendo abbiamo un problema ma non sappiamo qual è. Va bene, poi si è risolto, è tutto a posto. Chi lo sa, vediamo, perché fra un po' potrebbe cadere di nuovo. Sai, una volta che cadono i sistemi di messaggistica, che poi uno non si fida più tanto, perché è un problema. Però sarebbe strano, un sabotaggio, sarebbe strano che Facebook faccia un autogol del genere dopo aver speso 20 miliardi. Comunque, no, certo. Non è questa l'ipotesi, l'ipotesi potrebbe essere altro, o caso o hackeraggio, ma l'importante è quello che ci hai raccontato tu di come funziona, e adesso che Quindi adesso siete preoccupati voi whatsappisti? Un po' sempre, sì. Perché no, ma questo secondo me è anche un argomento interessante, perché ho questa sensazione che spesso quando tu mandi un messaggino su WhatsApp, tipo inviti qualcuno a una festa, quella cosa lì è un po' detta ma non detta, mentre l'SMS è più ufficiale, è un po' come la vecchia raccomandata. Ho questa sensazione che l'SMS è ufficiale, dici come ti ho mandato un SMS, tu non sei venuto, allora sei un bastardo, basta, ti lascio, finita. Pensa invece che su WhatsApp uno può sempre dire ma non l'ho visto, no scusa. Io li ho usati in tribunale gli SMS, non so se l'ho già raccontata questa cosa, sono serviti come prova, anche se poi non ho ancora concluso nulla, ma puoi raccontarla o c'è il segreto, perché non c'è è ancora concluso? C'è il segreto istruttorio, vedremo. Ma se cosa, si conclude, ma la cosa racconta. Avrà fatto Alessio Maurizi con no, io nulla, io nulla ho subito. Storie e ho portato, di droga? No, non esattamente. E ho portato gli SMS come si fa con le mail, come si può fare, o con altre come dire, documenti, certo, pezzi d'appoggio. Certo. Quindi è vero, sono ufficiali. WhatsApp è un'altra cosa. WhatsApp è di lì la sua forza. Va bene. Andiamo con gli ascoltatori allora. Cominciamo con Maria che ci chiama da Roma. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io chiamo da Roma e vorrei parlare di Movida. Sì. Allora, io sono una signora molto anziana, ho 85 anni e abito dagli anni 50 nella stessa piazza di Roma. Sì. È sempre stata una piazza abbastanza tranquilla. Tranne nei periodi dei pugni, delle cose durante le lotte tra fascisti e comunisti, però voglio dire niente chiasso, è una piazza dei parioli, quindi da una quindicina d'anni si è aperto un bar. Questo bar di notte, alle 3 di notte dell'anno 2000 mi pare che fosse, ha costruito sulle strisce pedonali un enorme gazebo in legno, è diventato prima bar, poi ristorante, sì. Adesso è diventato un pub e quindi fino alle 3 di notte fa un chiasso, una cosa eccetera. Ora, io sarò vecchia e rompiscatole, ma non c'entra. Però autoironica quantomeno e quindi è simpatica. Questa gente ha occupato con i suoi tavoli il nostro cortile condominiale che dà sulla strada e fiancheggia ovviamente il bar. Noi non siamo mai riusciti ad avere un vigile, uno che venga a controllare. Ecco, siamo stati costretti dopo 14 anni a ricorrere alla magistratura. Allora, queste cose vanno modificate, controllate fin dall'inizio, perché io ho degli amici americani che avevano comprato una casa a Campo dei Fiori e l'hanno venduta e sono fuggiti. Vabbè, ora, però, scusi Maria, prego, signora, lei ha ragionissimo, però mi sembra che sia più un problema di legalità questo più che di Movida, nel senso che se qualcuno occupa il suo cortile, lei ha ragionissimo e dovrebbe subito andare a fare denuncia. Che l'approccio di Maria fosse quasi questo, sì. Siamo dovuti arrivare a fare una denuncia con avvocati eccetera, mentre la legge ti dovrebbe aiutare all'inizio, perché poi questa cosa naturalmente si ingrandisce. E per la Movida è la stessa cosa. Beh, ma la Movida però non è che sia illegale cosa. La Movida invece no, occupare il suo cortile la Movida non è illegale, ma se tu a Campo di Fiori invece di permettere a una persona a suonare quei maledetti tamburi fino alle 3 di notte avessi cominciato a cacciar via quello, poi non è sarebbero arrivati. Ma forse Maria, anche perché suonavano malissimo. Maria, grazie. Grazie per averci chiamato. E allora, complimenti comunque, vorrei arrivare io a 85 anni e essere così splendida. Voglio dire due cose, poi abbiamo anticipato che avremo un'intervista dei comitati, il comitato dei comitati antimovida che è nato in questi giorni a Milano. Prima di tutto, se uno va a comprare casa a Piazza di Campo dei Fiori adesso a Roma, sa dove va, quindi è una scelta e se uno non è interessato non la fa, insomma. Ho capito. Prima cosa, la signora 85 anni. Ma lei parlava degli amici americani. Per quanto riguarda la sua storia, invece, lei ha ragione. Cioè, non hanno mai visto un vigile che venisse a controllare. Forse è proprio questo che manca: un'impostazione chiara di legalità. Questo si può fare, questo non si può fare. Le cose si trascinano e poi vanno a finire in tribunale. E su questo, sicuramente, è sbagliato. Bisogna darsi delle regole e seguirle, possibilmente. Io credo. Poi adesso sentiremo cosa ci dicono i comitati antimovida. Già abbiamo avuto una dimostrazione di quello che sarà con Carlo che incalzava la signora di 85 anni. No, non volevo incalzare. Che tra l'altro era molto carina e ha anche detto questo: non siamo contrari, diciamo, alla gente che si diverte, però magari non nel cortile di casa. Ecco, no, quello lo capisco molto bene, voglio dire, se ti occupano il cortile, mi arrabbio anch'io. Mauro da Roma, buongiorno. buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo partecipare al gioco del passante misterioso, però mi fa venire in mente questo discorso sulla mia vita, un vecchio detto che secondo me è sempre perfettamente calzante, cioè la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Sì, e quindi ci vuole come al solito buon senso in tutto quello che si fa, quindi... Ma soprattutto in questo caso che abbiamo appena sentito, diciamo, il mio gazebo finisce quando inizia il cortile dell'altro, ecco, direi. direi proprio di sì. Per quanto riguarda il personaggio misterioso, invece, la frase che sicuramente avrei voluto sentire, che è stata ripetuta, che poi era stata già detta, è che è meglio puntare sulla crescita, finalmente, e che dovrebbe smettersi di puntare sull'aumento delle tasse. Per cui il personaggio misterioso potrebbe essere Piercarlo Padoan. Padoan o Padoan? Padoan, o secondo Padoan, esatto. Sì. Grazie, Mauro, ma non era Padoan. Non era Padoan. Grazie mille. Comunque interessante questa risposta. Giulio dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il personaggio della settimana io pensavo che fosse Diego Della Valle. Perché? Perché nella risposta che ha dato John Elkann. E ha detto... Cosa ha detto? Ha detto che è uno che eredita, si appresta a parlare. Sì, sì, a proposito di quella questione sul fatto che i giovani non hanno voglia di lavorare, certo, eccetera. Certo. Poi Della Valle ha detto anche qualcosa di più, ha detto che Elkann è un imbecille, ha detto questo. Lei non l'ha ripetuto, non l'ha ricordato, però. No, non era Della Valle. Della Valle. Grazie, però, Giulio, grazie. Mi è piaciuta la pausa che hai fatto, però, Alessio, ha detto molto di più, comunque, ha detto veramente di più. Ha detto anche che era un imbecille. Sì, ero indeciso se ricordarlo oppure no, però questa è cronaca. Che è citato, io ho visto le virgolette, le ho proprio viste qui nello studio, che c'erano delle virgolette che giravano, quindi mi sembra perfetto. 800 24 00 24, facciamo una pausa. Si può fare cronache da un paese migliore. E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa senza te. E anche questa scelta musicale un po' festivaliera, se non altro perché la cara l'abbiamo rivista al Festival di Sanremo. Dunque grazie al nostro Andrea Piana, il nostro autore, che anche questa volta l'ha azzeccata la scelta musicale. Per introdurre che cosa? L'argomento di cui abbiamo già cominciato a parlare. È nato qualche giorno fa a Milano il comitato dei comitati antimovida. Adesso vediamo se dobbiamo preoccuparci, noi amanti della birretta la sera al bar anche sotto casa, e preoccuparci di che cosa, oppure no. Andiamo a conoscere Simonetta Chierici, buongiorno. Buongiorno. Presidente del coordinamento antimovida. Io ho fatto subito la battuta. Movida selvaggia, ecco, specifichiamo. Perché già abbiamo avuto una telefonata di una signora che ha esposto le sue ragioni in un caso particolare, ce ne sono mille, forse milioni, e sono ragioni anche giuste, giustificate, giustificatissime. Ci sono persone che non riescono a dormire la notte. Lei, ora ce lo racconterà, raccoglie ogni sera, forse ogni weekend, testimonianze di gente che prende i sonniferi perché non ce la fa e c'è troppo casino. Quindi sicuramente nelle città bisogna mettere forse un po' d'ordine su questo. Intanto ci racconti come è nata l'idea di riunirvi in un comitato di comitati. Ma guardi, noi da anni in Italia, però ogni città aveva associazioni, comitati per tentare di arginare il fenomeno, no? Di combattere il fenomeno. A un certo momento ci è venuta l'idea, ci siamo detti, ma perché non ci mettiamo in contatto con tutte le associazioni comitati italiani e ci uniamo? Proprio perché questo è un tema che è comune a quasi tutta l'Italia, quindi riunendoci tutti insieme potremo portare avanti un'azione molto più strutturata, forte, no? Nei confronti, ecco, ma, sì, delle istituzioni nazionali e delle istituzioni pubbliche. Ecco, ma la prima curiosità è proprio questa, cioè è possibile in qualche modo generalizzare, cioè trovare un terreno comune, oppure sono situazioni talmente concrete, caso per caso, che invece Cioè, qual è la prima richiesta del comitato, del vostro comitato, per esempio? Allora, noi intanto siamo in fase organizzativa e di strutturazione. Noi abbiamo messo in piedi, stiamo mettendo in piedi dei gruppi di studio, per esempio ce ne sarà uno che si occuperà di tutti gli aspetti legali, no? Allora, esistono leggi, esistono regolamenti in Italia che teoricamente possono regolare questo fenomeno, che di per sé è un fenomeno mondiale, quindi è logico che i giovani si divertano, non è che questo... Il punto è che in Italia questo fenomeno è degenerato, è molto degenerato, perché noi abbiamo molte persone che girano l'Europa per lavoro e bisogna ammettere che l'Italia è proprio la più sfasciata. Cioè, facendo il confronto con le altre città europee, in Italia c'è più lassismo? Se uno va a Parigi non è che può andare a bivaccare in Place Vendôme o in Place de Vosges staccando bottiglie di birra. È vero, cioè, questo è vero. Lo prendono e lo portano. Cioè, si può stare fuori la sera e bere fino alle 4 del mattino sicuramente, però ci sono dei limiti e ci sono dei luoghi dove questo si può fare. In più, l'esempio in che più ha fatto lei, Place Vendôme, sicuramente non c'è la movida la sera. Place de Vosges, Place Fürstenberg, insomma... È impensabile. Beh, però Barcellona, per esempio, le Ramblas, non mi sembra che sia il posto. Barcellona certo, è poi la storica, no? La patria. A Barcellona noi abbiamo fatto un convegno un anno fa, sì, e è venuto un avvocato spagnolo che si occupa proprio di questi temi, e in Spagna hanno dato una grande regolata alla cosa. Tant'è che sono stati denunciati due comuni spagnoli, Valencia e un altro, ed è stato denunciato il comune perché non faceva osservare. Quindi in Spagna stanno dando una grossa decenza. Ecco, però ora, quando si parla di questi argomenti si rischia di generalizzare. Poi io credo che, l'ho detto anche nella prima domanda che le ho fatto, che generalizzare in questo campo è davvero difficile. Ho degli amici, per esempio, che abitano sopra un bar, sopra un pub vicino a casa mia, e hanno avuto grandissimi problemi semplicemente perché il bar non era insonorizzato. Quindi per anni loro, anche se alle 10 di sera o alle 11 di sera mettevano la musica, era come averli in casa, ed era una follia. È bastato sonorizzare per risolvere il problema. Quindi sì, ma le soluzioni ci sarebbero. Allora, se uno riesce a comunicare con il locale, sì, e si instaura un rapporto di civile convivenza, allora certamente, no? Il locale. Allora hanno dovuto denunciarlo veramente. Perché non, questa, diciamo, civile convivenza non c'era, e soprattutto non c'era la volontà di spendere i soldi per fare quei lavori, no, lì. Ma infatti io sono interessato a capire, lei dice appunto una cosa di collaborazione, cioè capire forse che cosa intendete per questa movida. Che cosa intendiamo per questa? Movida, cioè lei dice, perché sennò rischiamo di, nel senso che è ovvio che non è qualcuno che beve una birra a un tavolino, ma giusto? No, esatto. Ma per carità di Dio, assolutamente. No, siccome... Io ho parlato di degenerazione del fenomeno. Ma perché, esatto, lei parla di spaccare le bottiglie, sì, o questo... ma queste, sì, cose qua sono atti illegali al di là, nel senso che sono illegali, certo, in tutto il mondo, e certo, non è che... certo, non è un elemento di novità, mi chiedevo... No, il fatto di vietare di spaccare le bottiglie. No, però diciamo che dal momento in cui il fenomeno movida, diciamo, si è amplificato moltissimo, perché negli ultimi anni con le liberalizzazioni c'è stata una crescita esponenziale di locali in molte nostre città. Sì. Ecco, ma questa cosa anche mi incuriosisce, nel senso che cos'è che è cambiato? Perché le volevo chiedere questa cosa, siccome io invece praticamente in ogni città dove si va tutti dicono niente, questa città è morta, alle 2 chiude tutto, all'1 chiude tutto, e anche a Milano comunque chiude praticamente tutto, non è che ci sono tanti locali che possono tenere aperto oltre le 2 di notte. Quindi volevo capire se per voi, diciamo, il chiudere presto vuol dire chiudere alle 11:15, oppure è dire noi non vogliamo alle 3 di notte del rumore. E per capire, non è polemica. Certo. No, voglio dire, tutto è relativo. Uno può chiudere anche alle 5 se non crea disturbo agli abitanti. La discriminante è questa. È questa qua. Il problema poi però ovviamente, sì, i bivacchi fuori, e i bivacchi sono solo italiani, perché le ripeto, fuori a Parigi ci sono le brigade anti-bruit nocturne che girano proprio per questo. Però forse brigate, non è bellissimo. Le brigate antirumore notturno. Però scusi, io da questo per questo aspetto qua ho sempre in mente una cosa. L'Italia è il paese delle leggi e delle regole che non si rispettano. Allora, sarebbe molto semplice che nelle zone più trafficate passasse ogni tanto una volante dei carabinieri o un vigile urbano. Se c'è qualcuno che sta spaccando una bottiglia, lo prende per la collottola e lo porta a fare una nottata in questura o un'oretta in questa, così gli passa la voglia. Si sta commettendo un reato, però. Beh, se uno spacca una bottiglia per strada, sicuramente. Sì, perché bivaccare, nel senso che non è che non si può stare seduti sul marciapiede per strada. Oh, se no arrivano le brigate antirumore. Beh, insomma, brigate francese, chiaro, francese, però mi ricordo altre cose. Diciamo sì. Gruppi, diciamo, vabbè, ci siamo capiti, Francia si dice così. Ma insomma, il vostro nemico chi sono? Le lobby? Perché lei dice in questi anni le liberalizzazioni, si è lasciato fare, si è chiuso un occhio, le lobby dei commercianti, dei titolari dei bar. Ma come facciamo a negare che dietro il fenomeno Movida ci sono degli interessi? Quelli che vendono l'alcol, per esempio. Enormi, ma si capisce, ma questo è logico, no? C'è alcol e c'è tanta droga, perché laddove ci sono grandi raggruppamenti di giovani è logico, secondo il commercio, no? E, insomma, anche Al Capone sosteneva che l'alcol dava lavoro a tanta gente, poi faceva guadagnare. Cioè... Sì, sì, e il tutto però è funzionato vietandolo l'alcol, vorrei anche ricordare, nel senso che fa un esempio molto preciso. E quel problema è stato vietando l'alcol, col proibizionismo si è creato il problema tre volte tanto, chiaro, quindi senta, non però, vorrei che le brigate... Signora Chierici, le vorrei chiedere questo, state ancora elaborando le vostre strategie perché il comitato è nato da poco, però non so, nel suo caso, lei è di Torino, vero? Ecco, i comitati di Torino, qual è la prima richiesta che fa? Cioè la richiesta di un comitato antimovida selvaggio come il vostro, qual è? Cioè, ci vuole una legge nazionale che riveda i parametri, ci vuole più polizia per le strade? Strade, quindi riferito alla questura, al comune, qual è la richiesta? Sì, sì, noi per esempio chiediamo un tavolo interforze per ogni città, visto che i comuni di per sé non mettono in pista i vigili o pochi, perché sostengono che non hanno i soldi, bla bla bla. Allora, facciano dei tavoli interforze, questura, carabinieri, vigili, e decidano una strategia per solamente, come a Barcellona, peraltro. Ma per esempio, sì, ma per esempio... Si potrebbe arrivare anche a chiedere ai stessi commercianti di mettere delle guardie private o di investire anche sulla sicurezza una parte dei proventi? Sì, si può chiedere tutto, però certamente insomma non è che ci sia una grandissima, come dicevamo prima, collaborazione. Cioè il commerciante di alcol, come il commerciante di verdura, vuole guadagnare al massimo. Beh, però in effetti il commerciante di alcol è un po' facilitato da questo punto. Teniamo aperti anche i negozi di verdura, così siamo tutti per strada, anche lei signora alle tre è per strada, lei compra la verdura e io mi faccio la birretta, no? Stomaco pieno fa anche meno male, quindi. Sì, e poi c'è meno rumore con la verdura. Va bene. No, va ma, perché, bene. Ma perché secondo lei i giovani dove devono andare di notte? Perché mi chiedevo questo. Ma i giovani vadano nei locali, vadano dove vogliono, ecco, questo non è che noi siamo contro. Ma però i locali sono piccoli in molti posti, oppure il tempo è bello, oppure fumare si può fumare solo fuori e ci sono molti, insomma. Però questo che cosa vuol dire? Allora c'è stato questo cambiamento radicale, fra l'altro aprendo valanghe di locali della notte, tutti in zone ad alto densità abitativa. Ma dove sono tutti questi locali? A Torino mi sta dicendo? A Torino ce n'è una valanga e sono in crescita. Altro dato interessante. Vabbè, scusi però anche meno male, perché altrimenti se i locali fossero tutti in periferia. No, adesso questa è un'altra battuta. Però in realtà i locali aperti, va anche detto che in realtà aiutano la sicurezza in una città, perché il fatto che ci siano magari anche tanti giovani per strada, in realtà in quella via se passa una ragazza è più tranquillo per lei piuttosto che in una via senza nessun locale. Deve lo sia. Palla colossale che è stata veicolata. Non è affatto vero. Noi abbiamo a Torino abbiamo avuto teste spaccate davanti ai locali, gente che, anche perché noi dobbiamo pensare agli effetti da una certa ora in poi, no? Cioè ci sono tipologie di persone come tutti noi che una sera escono, si vanno a bere un bicchiere e va benissimo, cioè, ma anche tre, insomma, ma si capisce, e anche tanti giovani, e anche tanti giovani che sono esattamente così, cioè una roba normale, no? Si fa un po' di allegria, punto. dall'una in poi, dall'una in avanti, se lei immagina la ripetizione della bevuta, e dall'una alle 4 del mattino le può immaginare, no? Ma dipende. Beh, se uno magari è arrivato alle 2:15. Sono casi un po' eccezionali. Alle 4 del mattino, per esempio, nella strada dove abito io, che è piena di locali, alle 4 del mattino è tutto chiuso. Però anche a luna di notte, io ripeto, anche a luna di notte, se uno ha un locale sotto casa che non è insonorizzato, anche a luna di notte è un problema. Però lì il problema è fare i lavori che sono previsti dalle leggi. Ci sono dei livelli di decibel, eccetera. Quindi è questo che bisognerebbe. Io credo che se già si facessero rispettare queste cose, probabilmente il 40, il 50, il 60% dei problemi sarebbero risolti. Grazie intanto per essere stata con noi, Simonetta Chierici, presidente del come si chiama? Comitato dei comitati Antimovida Selvaggia, è giusto? E degrado delle città, aggiungo questo. E degrado delle città. È molto lungo come nome. Uno per legge lo fa a notte, poi diventa troppo tardi, e uno c'ha la birra in mano e voi vi lamentate. Avete dei contatti per fare proseliti? Ce li vuol dire? Stiamo ricevendo un sacco di mail di altre città che si vogliono accorpare a noi. Cioè, è stato un boom proprio. Perché siete più cattivi, forse? Non siamo È una battuta, eh? Grazie, buona giornata, buona domenica. Grazie. Andiamo con un po' di ascoltatori. Virginia da Roma. Pronto, Virginia? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, ho sentito un po' la discussione, il tono degli interventi fino ad ora. E ho visto che l'impostazione della discussione tutta quanta è incentrata sulla legalità, sul concetto di legalità, di ordine, di rivendicazione anche di, per carità, legittimi diritti. E invece? Però no, il problema è capire le motivazioni che ci sono a monte. Il processo di gentrificazione che ha portato ad una concentrazione di locali e anche allo svuotamento, diciamo, di quello che era la struttura originale di alcuni quartieri. Io sono di Roma, quindi prendiamo, che so, Trastevere, Testaccio, San Lorenzo, erano tutti quartieri popolari, veramente popolari. E adesso invece? La riqualificazione di questi quartieri, in senso appunto gentrificante, che vuol dire, scusi, gentrificante? Cioè, in che tutti i locali vanno in centro invece che in periferia? Voglio dire a lei, alla signora, scusa. Allora, la gentrificazione viene appunto da... è un termine inglese, gentrification, è quando quartieri popolari vengono rivalutati, ristrutturati, le case vengono rimesse a nuovo. E ci sono un sacco di locali, chiaro. E questa cosa è cosa... Rivendute a ricchi o media-alta borghesia. E questo che c'entra con la movida, mi scusi? Appunto, diventano questi quartieri dei divertimentifici, non più realmente vissuti dalla gente come originariamente erano. Cioè, quindi lei ci vede una specie di disegno a monte di tutto questo. No, c'è un problema di urbanistica, cioè quello che va... Ho capito, va bene, dobbiamo fermarci qua. Grazie, Virginia, perché lei ha allargato il discorso a un altro mondo, no? Allora, poi sarebbe lungo parlare della gentrificazione, forse, però... C'è anche questo, no? Come cambiano i nostri quartieri? Noi poi abbiamo focalizzato l'attenzione sui comitati, questa iniziativa milanese. 800 24 00 24. Tra un attimo, oltre ad andare a Sanremo, sentiremo altre risposte sul personaggio della settimana, magari con un indizio in più. Per ora abbiamo detto che ha detto una cosa che molti volevano sentirsi dire. Strade in diretta. Ha preso fuoco un mezzo sul raccordo Siena-Firenze, sulla carreggiata verso Siena, tra Bargino e San Casciano Sud. C'è un incidente sulla carreggiata verso Pisa della 11 Firenze Mare, allo svincolo di Lucca, con disagi sia in entrata sia in uscita. Persistono foschie dense nelle vallate appenniniche dell'interno al centro-sud della penisola. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Buone notizie per chi, avendo bisogno del dentista, fosse alla ricerca di terapie eccellenti, rapide e indolori. La prima riguarda la soluzione di alta tecnologia che oggi amicodentista.com, esperto italiano di implantologia, mette a disposizione di coloro che ne avessero bisogno. È il Toronto Bridge, protesi fissa su impianti che riabilita l'arcata dentale in 24 ore con sicurezza, minimo disagio e garanzia di durata. La seconda buona nuova è che grazie alla politica low cost di amicodentista.com si spende meno che nell'est Europa, senza rinunciare alla qualità dell'odontoiatria italiana. Per info numero verde 800 08 8315 o sul sito amicodentista.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora andiamo con Alessandro che ci chiama da Coriano. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno, grazie. Volevo provare a dire il personaggio, sì, della settimana, perché secondo me almeno una cosa che io avrei voluto sentire dire da un bel po' e l'ha detta Sgarbi quando ha detto i contenuti delle telefonate di Napolitano. Sì. Allora vabbè, almeno quella era una cosa che... Questa era una cosa, in effetti poteva anche essere, sì, perché lui ha rivelato questo aspetto delle telefonate tra Napolitano e Mancino. No, comunque non era Sgarbi, grazie Alessandro. Grazie mille. Grazie a voi. Mi stavo chiedendo se in effetti rivelare il contenuto delle telefonate di Napolitano fosse una cosa che tutti volevamo che si facesse, interessante, vista da questo punto di vista. Sì, beh, insomma, se ne è parlato molto su questo. C'è curiosità, ovviamente, sì, su questa cosa, però è anche strano, diciamo, desiderare di sentire la telefonata del proprio presidente. C'era anche chi non gliene fregava nulla, ma come probabilmente anche della notizia. No, più che non gliene fregava, c'era chi diceva che non bisognava assolutamente ascoltare, sì, le telefonate del presidente, in questo senso. Ah, beh, quello sicuramente. Maurizio da Roma, buongiorno. Maurizio? Sì. Buongiorno. Tocca a lei. Dov'è, sotto la doccia? No. Corra al telefono. Senta, io sono a chiamare perché siete un'assemblea di salvataggio, ma non all'uopo. Nel senso, io mi trovo in quel di Viale Mazzini a Roma, che è una zona residenziale di fronte alla RAI. Sì, della RAI. Va bene. E in una maniera incredibile, mi sembra veramente caschiana, un benzinaio è diventato un ristorante di pesce. Tu dici, non è possibile. Ma è bellissimo, no. Questa storia è già bellissima. Per cui praticamente ha montato una sorta di cappa, che non so definirla differente, e si ha il pesce dentro casa 24 ore su 24. Io ho fatto degli esposti, sì, dove ho messo nell'esposto che in assenza di un riscontro mi sarei rivolto all'autorità giudiziaria. I vigili urbani di tutto contro mi hanno chiamato dicendo: ma lei che vuole? Ci minaccia? Morale, il negozio sta lì, il locale sta lì, e bisogna con le finestre chiuse, con un odore terribile che si esce, sembra, quando si esce di casa sembriamo dei supplì. Ma mi scusi, ma come va questo ristorante? C'è tanta gente che va a mangiare dal benzinaio? Ma no, il benzinaio era prima, non era c'è un più, benzinaio non c'è più, che adesso è stato dismesso. Ma da come la racconta lei sembra che da una mattina all'altra questo era un benzinaio, ha attaccato una cappa e adesso fa il pesce. Se no, è semplicemente che ha aperto un ristorante di pesce al posto del benzinaio. Sono io che non ho capito. No, io la metto sul ridere, ma non è da ridere. Guardi, vivere con una realtà del genere, stare chiusi. Però mi scusi, ma lì manca qualche canale di aerazione, qualche ventola. Ma manca, che non si può fare, perché quando tu hai una casetta alta 3 metri, sì, la cappa la devi portare al colmo del palazzo. Certo, ma non è che non si può fare un ristorante di pesce, mi scusi, giusto? Ma non si può fare neanche, non si può fare neanche in un benzinaio, perché i criteri di qualità che impone la legge non, sì, ci sono. Il bagno, guardi, ma è ancora un benzinaio o no? No, è un ristorante. Bravo, lei è proprio simpatico, però è fuori posto. Ma mi scusi, mi sta dicendo un benzinaio. E allora non ho capito qual è il problema. Mi sta dicendo che non si può fare un ristorante di pesce se sei prima un benzinaio? No, mi sia proprio E allora questo benzinaio non esiste più, è stato dismesso. Appunto. Quindi non oggi è un problema. Al posto del benzinaio, che è una casetta di 2 metri per 2 metri, si è creato un benzinaio con i tavoli di fuori ed ha reincintato lo spazio che una volta era il transito dove sfoggiavano le macchine. Perfetto. Ora io... questo in Viale Mazzini, che è primo municipio, il cuore di Roma, non è che l'ha fatto in mezzo alla campagna. l'ha fatto nel cuore di Roma, sotto un palazzo dove sì. c'era il dentinaio che non aveva più le autorizzazioni per poter stare. Va bene Maurizio, abbiamo capito. Grazie. Allora, la questione è, abbiamo capito tutti, certo. Probabilmente non ci sono le condizioni di agibilità per fare un ristorante, non lo so, magari c'erano, però arriva il puzzo di pesce, ma lì manca qualche canale di aerazione, qualche ventola. Ripeto, il problema è che spesso non si rispettano le regole, perché è evidente che ci sono delle regole, no? Ah, allora, prima c'era il puzzo di benzina, adesso c'è il puzzo di pesce. Probabilmente è peggio così per chi ci abita. Però è più sano il pesce. Ce l'abbiamo Marta Cagnola? Marta? Senti, sono un po' disorientata con questa storia del benzinaio, del ristorante. Lo so, perché sai come sono gli ascoltatori. Anche poi... noi. Sai come sono gli ascoltatori. Perché io una settimana che penso solo a Sanremo, quindi questo incontro... improvviso con la realtà adesso al telefono. Hai visto? Perché il mondo va avanti, Marta, il mondo va avanti. Sentiamo qualche secondo della canzone vincitrice, ce l'abbiamo? Sì, e poi con Marta. Sentirla, naturalmente, la canzone di Arisa, la canzone vincitrice, però noi vogliamo anche un po' qualcosa all'atre, qualcosa di contorno, qualcosa di gossip, perché insomma la musica poi l'abbiamo sentita, no, io per esempio non l'avevo sentita, però non importa. No, beh, allora diciamo che Arisa è un si può fare vivente, dai. Cioè, beh, se noi sì. guardiamo Arisa di qualche anno fa, Arisa, cioè lei potrebbe essere il vostro testimonial. È vero, verissimo, lei... giusto. È vero. Lei è proprio. Poi, vabbè, gossip. Allora, questa canzone, sapete, mi piacciono i gossip un po' sentimentali. Questa canzone gliela ha scritta l'ex fidanzato. Ah. E quindi chissà che si stia riaprendo qualcosa tra di loro. Ma io faccio il tifo, scusa. Le scrive queste canzioni bellissime. E non è giusto. Ma vabbè, è un matrimonio di convenienza, però, così per come ce lo stai descrivendo tu, eh? No, perché se un uomo ti scrive delle canzoni così belle, o se una donna, insomma, non è che questo fa molto. C'è un escluso, Marta, secondo te, dalla terna vincente che invece si meritava di starci? Ma allora, che si meritava di starci? Tanti, insomma, questo è un po' lo spirito, ad esempio, del premio della critica, che risarcisce, secondo i giornalisti, la canzone che avrebbe meritato un premio. Quest'anno è andato a Cristiano De André, peraltro con Invisibili, la canzone che non aveva passato il turno. Quindi il risarcimento è già insito nel premio della critica, tra l'altro con grandi liti ogni anno, perché ogni anno viene chiesto, soprattutto dai fan di Loredana Bertè, che venga consegnato sul palco. Ma noi litighiamo ogni volta perché va consegnato in sala stampa, perché è un premio della critica. Vabbè, sono cose che sembrano talmente stupide raccontate fuori da Sanremo, cioè, ma no, voi preferireste, chi è che vuole il premio in sala stampa e chi è che lo vuole sul palco? Sul palco lo vorrebbero i fan di Loredana Bertè, che hanno cominciato ieri a scrivere messaggi a tutti. Pensa un po' Facebook, quali sono Twitter, le questioni in cui si affaccendano i giornalisti a Sanremo. Vabbè, non voglio sapere altro, Marta. No, a parte gli scherzi, dobbiamo chiudere perché c'è il giornale radio. Comunque, Marta, adesso torni a Milano, però. Torno a Milano, ci saranno tante altre cose di cui parlare, insomma, alla fine un anno in più, un anno in più, si archivia un'esperienza in più. Dai, bella giornata anche oggi, immagino, a Sanremo, sì. Splendida. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi. Non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV. E non puoi dire, lascia che sia, perché ne avrei. Si può dare di più, studio si ballava, eh. Sono tornato giovane, d'ora in poi ci chiameremo Si può dare invece sì. che Si può fare. Sanremo 1987, questa era la vostra canzone, il vostro Si può fare di oggi, che casualmente coincide con una canzone di Sanremo e ce l'aveva segnalata Emiliana Renella. Vi ricordiamo che noi cerchiamo le vostre canzoni significative per fare la colonna sonora di Si può fare. E questa, insomma, era la segnalazione di oggi. Tutto un weekend sanremese, Carlo. Posso leggerti un SMS che mi ha fatto ridere, dice: siete ignoranti come zucche, l'accento del nome Padoan è sulla A perché è un nome di origine veneta. E noi ringraziamo molto, però? Il problema è quale A, esatto. Esattamente, nel senso che o è Padoan o è Padoan, al di là che la pronuncia dei nomi veneti non credo che faccia parte della scuola dell'obbligo, soprattutto non a Milano. Noi del Sole 24 Ore, che Padoan lo conosciamo bene perché insomma, tutti i commentatori economici e tutti gli esponenti del mondo economico li conosciamo da vicino, diciamo Padoan, quindi io lo metto Padoan. Lì l'accento, sì. Però invece temo che questo Veneto sta dicendo che invece sia Padoan. Ma che ne sa questo Veneto? Come che ne sa? Lo saprà tantissimo invece. Saprà del Veneto ma non di Padoan. Adesso però abbiamo recuperato Marta Cagnola da Sanremo in mezzo al sole, ai colleghi, ai cantanti, ai VIP. Ciao, perché Marta. Ci eravamo salutati un po' in fretta e furia perché c'era il giornale radio. Allora Marta, io però ti avevo chiesto un po' di contorno, un po' di dietro le quinte, un po', per esempio i dati di ascolto definitivi non ci sono ancora. Guarda, sono arrivati in questo istante, aspetta che te li leggo perché così insomma. Cavolo, ce li ho, siamo sulla notizia. Perché... Allora, 9.348.000 ascoltatori, 43,51% di share, prima parte 10.415.041,10, seconda parte 7.044.053,56. Un dato molto interessante è il 27,99. Quindi facciamo pure 28 di PIF, 7.359.000 spettatori. Cioè PIF è il pre-Sanremo, il San Romolo? Esatto, ma quindi i dati, che io ho amato molto. I dati non sono andati benissimo nemmeno per la finale, o sbaglio? Allora, cioè, qual in è confronto problema? All'anno scorso? Diciamo che un festival non lo ripigli più. Purtroppo non è molto nello spirito Si può fare, perché non si può fare. Cioè, era partito male e insomma è proseguito un po' finale, così. La finale di solito recupera molto, no? Recupera, ma non può recuperare rispetto agli anni precedenti, certo, quindi certo. La finale risale. Cioè, se non scatta l'amore tra il pubblico e il festival, poi non lo ripigli più, insomma, per i capelli. Ma ci sono state dichiarazioni? Stavo per dirti come nella vita, ma questo non lo si può riflettere. No, nella vita, vita si può recuperare, si può fare nella vita. Poi ognuno nella vita, insomma, c'ha le sue sfighe, adesso non mettiamola in piazza, perché sennò... Ma Fazio e Littizzetto hanno rilasciato dichiarazioni. Ecco. Di qualche genere? Allora, sì, cosa è successo? Di solito le dichiarazioni finali arrivano nella cosiddetta conferenza finale e ce l'abbiamo oggi a mezzogiorno. Esatto. Ma siccome Fazio e Tizzetto sono già partiti per Milano, perché loro avranno questa che tempo che fa che sarà una sorta di spin-off festivaliero con Letizia Casta, eccetera, eccetera, eccetera. Loro partono, l'hanno fatto anche l'anno scorso prima della conferenza finale, e quindi sono venuti e sono, questo bisogna dirlo, sono veramente molto carini, sono venuti anche se non sarebbe compito loro a fare un saluto ieri sera in sala stampa, sì. Non ufficiale, non sul banco della conferenza stampa, ma così tra i tavoli, abbiamo chiacchierato con loro. Beh, insomma, Fabio Fazio si dice comunque molto soddisfatto, lui dice: ho fatto parlare della bellezza, ho fatto passare i temi che mi interessavano, sono comunque soddisfatto, anche se la domanda che serpeggia è il 2015? Esatto, era questo che volevo chiedere. Si parla già di un nome o si parla di riconferme? Non si sa ancora. Vabbè, ma allora, c'è tutto un anno. Sì. Ma mica tanto, ci sono due settimane. Perché... Esatto. È Carlo che conosce bene i meccanismi, risponde, è vero. Allora, io sono partita che vinceva Renga e che Sanremo 2015 era di Bonolis. Sono partita così. Quindi non ci sarà Bonolis perché... Beh, Gubitosi ha già detto, mi sembra, che non vuole andare a prendere qualcuno in casa Mediaset, o sbaglio? Ma allora, in realtà quello che si diceva, poi sono cose che... Si diceva prima del festival, adesso è cambiato tutto. No, si diceva che ci sarebbe stata questa Pax televisiva con Lucio Presta, il potentissimo agente che aveva già in un qualche modo gestito, anche se il verbo non è proprio esatto, i festival con Gianmarco Magno. Marsi, Festival di Morandi, si diceva ci sarà un ritorno di presta, magari con un Bonolis alla conduzione. Lo si dava anche quasi per scontato nelle ultime settimane. Invece evidentemente la Rai vuole optare per una soluzione interna, devo dire che in anni di spending review forse non è così sbagliato. Tocca Baudo? Ci tocca a Baudo? Sì. Quanto gli piacerebbe. A Pippo piacerebbe. Sì. Ma a tutti ci piacerebbe. Sanremo è la messa, giustamente. Lui è il Papa. Marta Cagnola è rimasta senza parole quando hai citato Baudo. Chissà. Volevo sapere. No, nel senso che io sono d'accordo. Sanremo come la messa, io Baudo ce lo vedrei. Però magari un po' come Chierichetto. Ecco, con qualcuno ottima, a fianco. Mi sembra un'ottima chiusa. E adesso verremmo tacciati di essere un po' blasfemi, giuro, era solo una battuta. Era solo una battuta, ma sai, a volte basta poco per scatenare gli ascoltatori. Grazie ancora Marta Cagnola. A presto. Grazie buona mille. Giornata. Va bene, poi se ne parla. No, io ho detto è presto, sì, i meccanismi, però poi alla fine, ma chi se ne frega chi conduce? Cioè, adesso si dirà conduce Tizio, poi lo scopriremo tra un po' e la gente per fortuna. No, quello è vero che se ne frega, No, ma assolutamente. È che, diciamo, Fazio, se avesse fatto degli ascolti paragonabili a quelli dell'anno scorso, ovviamente era sarebbe il pectore lui. Sì. Invece poi, non se ne parla ancora. Esatto. Beh, ma io ho dato un'occhiata agli ascolti, adesso questo sì, degli ultimi anni, dal 2000 in poi, con tutti i vari Fazio, 1, 2, 3, c'è. E il calo degli ascolti di Sanremo è un declino inarrestabile. Beh no, però sì, però in confronto a quello dell'anno scorso. Poi ci sono alti e bassi, ma il calo, se guardi gli share degli anni d'oro, non si raggiunge più. No, non si raggiunge più, esatto, come share, però come numeri, l'anno scorso infatti andò benissimo, quest'anno ci sono andate le serate che sono andate sotto le serate della Clerici, per dire. Quindi... Chissà se Paola da Penne ha chiamato per commentare Sanremo o no. Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Paola? Sono l'ottimismo, pronto? Eccoci. Buongiorno. Siamo. Viva l'ottimismo, vi ascolto sempre. Grazie. Siete i migliori, mi tirate su un po' di morale. Ci tiri su allora, lei oggi? Io... Prego? Ci tiri su lei oggi, Paola? Ma molto volentieri. Allora, sì. Sanremo purtroppo non l'ho potuto ascoltare perché ero distrutta, in quanto sono un'insegnante di una scuola superiore, sì. E il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha accorpato scientifico, artistico, classico, scienze umane, però noi abbiamo visto il lato positivo, mm-hmm. Perché abbiamo fatto 10 spettacoli con oggi per promuovere l'iscrizione dei ragazzi della terza media presso i nostri istituti e abbiamo fatto una performance anni 60. Sì. E noi abbiamo una sezione moda e costume, quindi sono stati realizzati degli abiti anni 60, i gioielli bellissimi della sezione ripiceria, la scenografia con le installazioni anche multimediali, quindi spettacoli rivolti ai ragazzi delle terza media, sì, per, sì, diciamo, per iscriversi presso i nostri perché istituti. Capiscano come certo, qual come... è la scelta, quali sono le scuole, sì. Quali sono i percorsi, bravi. Ma questo abbiamo messo tutto, abbiamo messo anche inglese, sì. Abbiamo fatto un discorso di Martin Luther King e film musicali con tipo Alice Pride, Dirty Dancing, i testi curati da una collega di lettere, bello, e poi bello. La passerella finale con un mix dei Beatles. Hola. Paola, con questo, sì, racconto ci sta dicendo cosa ha reso bella la sua settimana, certo, e secondo ma soprattutto me la scuola. Sì, sì, si becca probabilmente, visto che oggi non ha chiamato nessuno, da ieri ma i biglietti dare... per la mostra di Munch. Ma diamo biglietti per tutta la scuola. Diamo i biglietti per tutta la scuola. Non, ma non, molto volentieri. Non facciamo promesse. Dell'arte. Grazie Paola, buona giornata. Grazie a voi, continuate così che siete bravissimi. Grazie. Traffico. Si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo Franca da Verona, buongiorno Franca. Buongiorno. No, attaccato. Franca, proprio sul più bello, esatto. È caduto. Allora, guarda, ti leggo questa cosa qua rapidissimo, sì. Visto che ci siamo appena presi un bravissimo da una signora che ha chiamato, ci ha fatto un sacco di complimenti. Per par condicio volevo leggere un SMS che dice: il commentatore della trasmissione On Air è veramente un imbecille. Però siccome siamo in due, non sappiamo chi dei due sia, quindi aspettiamo un altro SMS. Non lo sapremo mai. Gemma da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, allora senta, io sono un consigliere di Italia Nostra, oltretutto vivo in centro storico di Roma, nella, sì, zona di Campo dei Fiori. Il problema dei locali non è solo quello dell'isolamento acustico, perché i locali in realtà se uno li ottiene, ma le persone che vanno fuori. Allora, lo stress acustico è un danno alla salute che dall'OMS è stato messo al secondo posto e quindi è importantissimo. Questi qui stanno per la strada Fino alle 5 del mattino non c'è nessun controllo. Io vorrei tirare in ballo le sovrintendenze, che non se ne occupano assolutamente. Lei consideri che il centro storico di Roma, che è il più importante del mondo per quello che abbiamo, non è tutelato, non ha una tutela il centro storico di Roma, e questo è gravissimo. Un altro problema importantissimo sono l'inquinamento dei mozziconi a terra, perché la gente esce fuori per fumare, e c'è un articolo bellissimo sul giornale Terra Nuova dove dice che 72 miliardi di mozziconi in Italia ci sono, con un carico inquinante enorme, inquinante, e naturalmente c'è il polonio, c'è di tutto. Vabbè, insomma, i problemi, Gemma, sono tanti. Carlo Gabardini, volevi dire una cosa? No, perché le volevo chiedere una cosa, perché non vorrei che da quello che ho detto prima sembrasse che a me non mi interessasse il problema. Io capisco benissimo che c'è un grosso problema di rumore e di inquinamento acustico. La cosa che mi chiedo è: come si fa a vietare a delle persone che sono in una piazza a dirgli voi non potete stare qua? Mi chiedo questo. Innanzitutto il locale dovrebbe essere responsabile delle persone, dei loro clienti, e quindi cercare di farli stare tranquilli. Però essere responsabile è molto difficile, perché nel momento che uno esce poi non è uno può seguire. Ci sono dei locali qui intorno che hanno dei cartelli, ogni tanto esce qualcuno e dice calmatevi, perché stanotte fino alle 5 urlavano come dei forsennati. Ma anche coi cartelli, però, immagino, nel senso che i cartelli è giustissimo. Il cartello è già qualcosa. Giusto, no, io sono felice che stia parlando di cartelli, sono contento, perché mi chiedevo se no come si fa a sgomberare delle piazze, ecco. No, ma parlo anche delle strade, i vicoli. Nei vicoli c'è un rimbombo enorme e ci dovrebbe essere un divieto di creare questi accumulo di persone che urlano. Non hanno il minimo rispetto e ci vorrebbe un controllo. Sì, è che è difficile vietare un accumulo di persone, perché diciamo la libertà individuale di stare in una via. Ma quello che manca a Roma sono i controlli. Assolutamente manca di controllo su questo. Io l'ho già detto, grazie Gemma, credo che siamo tutti d'accordo, cioè ci sono degli eccessi prima di tutto che vanno evitati, perché quando si parla di movida selvaggia si parla di bottiglie rotte, di gente di risse, gente che urla, ecco, già intanto eliminiamo queste cose. Poi le dice il problema non è l'insonorizzazione dei locali, insonorizziamo i locali, eliminiamo gli eccessi, vedrai che il problema della movida si sgonfia anche perché le risse ovviamente sono controllate. Il problema è che se uno non le controlla nessuno, il problema è che teoricamente sono controllate. Poi tu hai mai visto un poliziotto intervenire alle colonne di San Lorenzo la sera? Io mai. Succede. In casi rarissimi. Però, penso che la soluzione sia recintarla e chiuderla. Infatti, la soluzione è avere un poliziotto che controlla, e se succede un casino porta via per la collottola chi è esagerato, non di transennare tutto. Questa almeno è la mia opinione. E poi abbiamo questi 72 miliardi di mozziconi di sigarette che bisogna però dire alla signora che non è che vengono i mozziconi che vengono buttati di giorno però inquinano uguali a quelli che vengono buttati di notte, credo. O no? Bella domanda. Franca da Verona, l'abbiamo recuperata, la signora Franca, buongiorno. Buongiorno, io volevo provare a rispondere al personaggio della settimana. Sì. Forse non riguarderà tutti, magari è banale, però io dico Papa Bergoglio. Perché? Il fatto che tra le varie cose ovviamente interessanti di cui ha parlato, ha nominato anche una nuova, come dire, integrazione dei separati, divorziati, un'accettazione diversa che ci deve essere da parte della Chiesa. E lei dice questa era una cosa che tutti volevano sentirsi dire. Forse è probabile, no, però, che molti volessero sentirsi dire. Ma sufficientemente, però assolutamente non era questa la risposta giusta. Comunque grazie, perché almeno ci ha dato anche questa notizia. Ma non perché non riguarda tutti, è perché non è lui il personaggio di questa settimana. No, aggiungiamo anche a questo punto un indizio, che è un politico il personaggio della settimana, è un politico che ha detto una cosa che molti volevano sentirsi dire. Tra poco, io credo qualche altro minuto, un altro indizio, perché ci vuole perché è molto difficile il personaggio questa settimana. Sì, non è un personaggio notissimo, non è un personaggio notissimo, diciamo anche questo, un altro mezzo. È più nota la notizia. È più nota la notizia, ma anche quella non lo so quanto è nota, sicuramente è nota agli ascoltatori di Radio 24. E adesso hai detto troppo, eh? No, non ho detto moltissimo, anzi. Adesso invece vogliamo parlare di persone in cerca di una seconda chance. The picture still hangs on the wall from back in the day when you had it all. Aye, aye, aye, aye. It's a fraction of the whole, but it's hard to control. Just Allora, il progetto di cui vogliamo parlare è questo, un progetto concreto. Nelle cooperative, anziché in prigione, il riscatto di 44 giovani detenuti. E questa è la seconda chance di cui vogliamo parlare. Ma ricordiamoci sempre che la seconda chance non è tanto e solo per chi ha commesso un reato e gli si dà la seconda chance di essere recuperato attraverso la pena. La seconda chance ce la diamo anche noi, cittadini normali, di vivere in un mondo più con meno reati, perché le statistiche ci dicono che tutti i detenuti coinvolti in questi percorsi di pene alternative, riparative, di percorsi di recupero, eccetera, poi tornano a delinquere molto meno, e questo ci deve rallegrare tutti. Ne parliamo con il curatore di una ricerca che ha fatto da appoggio a questo progetto, che viene dalla Liguria, Davide Lago, buongiorno. Buongiorno a lei. Curatore buongiorno della ricerca percorsi di riscatto commissionata dalla Regione Liguria a proposito di questo percorso che vede insieme la Regione, alcuni carceri, alcune associazioni di volontariato e anche delle cooperative. Prima di tutto, in che cosa è consistito questo progetto che è partito qualche anno fa e di cui adesso si parla, anche perché c'è quella ricerca di cui si è occupato lei? Il progetto Lago. Ma fondamentalmente il progetto è un progetto di servizio civile regionale, quindi di fatto è stata l'occasione per alcuni giovani dai 16 ai 29 anni in pena alternativa, quindi non in carcere o in differimento di pena, di poter svolgere servizio concreto, proprio ore di lavoro e di servizio. Sì. All'interno di associazioni, cooperative. A fare cosa, per esempio? Perché già qualcuno che ascoltatore immagino che dirà: ecco, vedi, lì a prendere il sole e a non, invece di stare in galera. No, diciamo, perché l'importante è proprio questo: cioè queste associazioni fanno dei lavori anche impegnativi, no? E quindi l'idea è proprio quella di scommettere su un recupero che passa attraverso che cosa? Quali sono queste le esperienze che fanno queste associazioni? No, queste associazioni, che intanto erano appunto associazioni delle quattro province della regione Liguria, erano tra loro c'erano molte pubbliche assistenze, c'erano enti che lavorano con i disabili, con le persone anziane, centri diurni socio-educativi, mense, insomma c'erano veramente di tutto. Cioè ci si mette a confronto con il sociale, con i disabili, con gli stranieri, con la gente che ha bisogno, con le mense della carità, eccetera. In alcuni casi può essere più impegnativo andare a fare il volontario in una mensa della carità che non stare agli arresti domiciliari o in qualche carcere minorile. Perché più utile sicuramente, ma anche moralmente una scommessa diversa, tant'è vero che il risultato di questo progetto qual è? Ma fondamentalmente noi abbiamo voluto scommettere su un paio di ipotesi che poi hanno sostanziato la ricerca. La prima ipotesi era che l'educabilità di questi giovani volontari cresce con la consapevolezza di quanto via via si sta imparando. Quindi fondamentalmente è una scommessa proprio sulle potenzialità della persona. E la seconda ipotesi su cui abbiamo lavorato è che in presenza di tali apprendimenti, cioè di queste cose che si imparano facendo delle esperienze nuove, cambia molto anche la rappresentazione che si ha di sé. Quindi proprio l'idea, la percezione che la persona ha di sé, delle sue reali potenzialità. Cioè migliora, capacità. Credo di intendere tra le righe questa percezione di sé, perché anziché essere uno che ha commesso un reato e sta in carcere, sono una persona che sta aiutando gli altri. È questo? Non solo, ma spesso frequenta ambienti nuovi come le cooperative o le associazioni, dove riceve dei riscontri su di sé totalmente inediti rispetto all'ambiente che magari frequentava prima. E questo aiuta che cosa? Aiuta il recupero, aiuta il, insomma, percorso? Aiuta chiaramente a cambiare la percezione che si ha di sé. Se alcuni giovani, per esempio, nelle interviste dicevano: ho finito per la prima volta questo progetto quando nella mia vita non mi era mai capitato di terminare qualche cosa, perché ho abbandonato la scuola, perché sì, eccetera eccetera. Oppure mi è stato detto più volte che su questa cosa sono molto bravo, non mi era mai capitato. È ovvio che sono inserimenti nuovi di scontri inediti sulla persona, sulle proprie capacità, che hanno un potere non facilmente misurabile, ma hanno ovviamente un potere di cambiamento. È anche un modo, tra l'altro, per mettere al servizio anche della comunità. Sicuramente lei diceva è più utile che stare in galera, no? È più utile per tutti che ci siano delle persone che fanno volontariato, che poi il volontariato non è in questo caso, perché tra l'altro formalmente come si configura? Equivale allo scontare la pena, no? Anziché farla in carcere, uno la fa in questi Ma in alcuni casi erano, per esempio nel caso dei minori, erano delle attività di messa alla prova vera e propria, sì, che servono poi per permettere al magistrato una valutazione. Di valutare il famoso affidamento in prova ai servizi sociali. Esatto. È più utile sicuramente per noi, è più utile per chi è coinvolto in questi percorsi, perché dicevamo, le statistiche ce lo dicono chiaramente, che la recidiva è molto più bassa quando le persone passano attraverso questi percorsi. Questo è proprio un dato incontrovertibile. Nel vostro caso, visto che il percorso è fresco, non so se avete ancora già potuto misurare questo, oppure se vi siete appoggiati su altri dati, o quali considerazioni sulla recidiva si non abbiamo fare. Considerazioni sulla recidiva sia per i numeri ridotti sia per il tempo effettivamente limitato. Quello che si può aggiungere, oltre ai dati sulla recidiva che citava lei, è il fatto che costa effettivamente molto meno, anche da un punto di vista banalmente economico, per la società, sì, un tipo di progetto di questo tipo che è una giornata di carcere. Quindi, perché una giornata in carcere quanto costa? È difficile quantificarla evidentemente, però stiamo parlando di spese notevoli per persone che di fatto non hanno poi non la possibilità di rendersi operative. Invece in questo caso si rendono operative, fanno qualche cosa, insomma, abbiamo già detto, però, e quindi è anche un costo in meno, per cui i vantaggi, volendoli elencare, sono tanti. Sono sicuramente di tipo relazionale per la persona coinvolta, che incontra ambienti nuovi, persone nuove e riceve riscontri nuovi. Sono di servizio alla collettività, perché si aggiungono risorse umane all'interno di organizzazioni che spesso hanno bisogno effettivamente di volontari. Sì. E sicuramente a livello complessivo si innalza leggermente il livello di sicurezza reale della società. E si risparmia anche qualche cosa che non guasta. Vabbè, complimenti, io spero che questo progetto lo si possa estendere. Tra l'altro il pezzo che manca in tutto questo è quanto, per esempio, il decreto svuota carceri appena approvato, quanto la sensibilità dei vari ministri, dei vari governi è in sintonia con questi percorsi che si cerca di fare, ma mi sembra a volte più come casi isolati, meritevoli, che non come messa a sistema di un'idea. Diciamo che questi progetti tendenzialmente nascono dal basso, nascono dal territorio, in questo caso dalla Regione Liguria e dagli uffici del Ministero della Giustizia presenti in Liguria, come l'UEB e l'USM, quindi adulti e minori. È chiaro che questa volta, con la pubblicazione della ricerca, si vuole dare maggior visibilità a progetti di questo tipo, nella speranza che si possano replicare, che effettivamente altre regioni poi possano cogliere questi elementi come un elemento di contaminazione positiva, quindi poter mettere in campo progetti di questo tipo. Va bene, grazie, complimenti. Grazie mille. E bocca al lupo. Buona giornata. Per questo progetto. Va bene, adesso abbiamo un po' di ascoltatori. No, mi sembra un progetto bellissimo, sì, questo del cooperativo. In realtà volevo chiedere una cosa che è pessima, sì, a quello che gli hai chiesto tu, che è il fatto che mi sembra che in realtà loro si sostituiscono a quello che già le carceri dovrebbero essere, cioè le carceri dovrebbero praticamente essere delle cooperative, nel senso che lo scopo della pena è rieducativo in Italia, sì, quindi è un po' che le carceri, infatti, non ce la fanno a occuparsi di quella cosa lì, e quindi qualcun altro per fortuna si offre del reinserimento. Non ce la fanno perché non lo vogliono fare, perché ti ricordi abbiamo fatto il caso in Germania, dove le carceri stanno diventando in molti land delle vere e proprie medie imprese, dove si lavora, per esempio, e anche il lavoro è una forma, esatto, di recupero. Esatto, questo che dico, che stare lì è lo stesso carcere, sì, che praticamente si fa cooperativa, sì, e sì, diventa... Abbiamo un po' di risposte, credo, anche sul personaggio della settimana. Abbiamo appena dato un indizio. Gianni da Milano, buongiorno. Abbiamo detto che è un politico il nostro personaggio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, buongiorno. Io credo che il personaggio sia Fabrizio Barca, in seguito all'intercettazione che ha avuto con la Zanzara. Ma, che ha confermato, ma lei in realtà è Fabrizio Barca che sta imitando di essere un ascoltatore, ci chiama? Non ci caschiamo, non ci caschiamo, guardi, non faccia il furbo con noi. No, grazie Gianni, non era però Fabrizio Barca, non era lui che avevamo pensato. Troppo autoreferenziale sarebbe stato, cioè no, la notizia, sì, creata da Radio 24, poteva anche starci, ma non era lui. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Soldi da poterseli rubare, si può fare. Andiamo con Germano, che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Buongiorno. Grazie a lei. Buongiorno. Il mio problema è questo, che ascoltavo la vostra trasmissione, sì, e ho sentito dire con una signora che ha chiamato prima di me, sì, che sì, è difficile far zitti i ragazzi fuori dalle città, non fare gli assemblamenti, perché fuori dai bar, dice, o fuori dalle, sì, città, quando vanno fuori dai locali, sì, tutto questo. Allora io mi sono trovato martedì scorso, sì, ero a Roma per la manifestazione dei commercianti, mi sono trovato a fare una passeggiata per il centro, da arrivare, sono passato davanti al Quirinale, sì, è transennato a 200 metri dall'ingresso con tutti i poliziotti lì schierati. Ah, ho capito dove vuole arrivare lei. Poi c'erano dei ragazzi fuori dalle transenne, sì, un gruppo di una ventina di ragazzi, sì, lì che parlavano, facevano anche un po' di confusione, onestamente. Però i carabinieri sono andati là e li hanno mandati via. Certo, perché lì c'è il palazzo della politica. Dove c'è il Parlamento, dove ci sono i politici, è possibile mandar via la gente. Però diventa difficile. Non possiamo mica transennare. Non possiamo mica transennare tutti i bar, però, no, del mondo. No, però Germano ha detto una cosa diversa: ha detto che la polizia interviene solo dove ci sono i politici. Ora, io non so se interviene solo dove ci sono i politici. Perché lì c'è più polizia. Sicuramente, però ha toccato un tasto. Signori, scusate. Sì. Non c'è nessuna legge che autorizza le persone a disturbare gli altri alle 4 o alle 5 del mattino. Non c'è nessuna legge, quindi questi ragazzi che fanno questi casini sotto i locali, sì, e nelle strade della città sono fuori legge. No, ma non è che deve esserci una legge per permetterlo, però, mi scusi, no, Non è che deve esserci una legge, dice, voi no, potete, il contrario, sì, esiste una legge, però, che si chiama disturbo della quiete pubblica, però, che effettivamente questo, può essere applicata. Questo l'abbiamo già detto, Germano, però mi tolga una curiosità, lei era a manifestazione perché è un commerciante, allora? Sì, sì. Che cosa, che negozio c'è? Non vende alcol, direi. No, niente, no, altro. Io dirò, sono commerciante, ma sono già pensionato, quindi. E cosa, che negozio aveva? Abbigliamento. Abbigliamento. Perché forse, tra l'altro, in questo periodo, insomma, mettere limiti alla movida selvaggia, sì, però mi faccia fare un ragionamento, è ancora più difficile in questo momento di crisi, perché i commercianti giustamente diranno e direbbero, beh, ma insomma, se ci fate anche chiudere prima, allora già la gente non spende, così non spende proprio più. Questo è un legame con la manifestazione di Roma. Comunque, Germano, mi permetto un attimo, sì, una cosa, poi chiudiamo. Io non dico di chiudere la movida e non dico. No, ma questo non lo dice nessuno. Sì, che sì, dovrebbero essere le istituzioni, prima di tutto, a non dare dei permessi in locali in centro. Questa ha ragione. Cioè, no, in centro. Locale, ai locali che non ne hanno, come dire, i titoli. Ripeto, grazie Germano, intanto. Ci sono infiniti casi di illegalità. Insomma, chiunque di noi si è imbattuto in questo. Io torno all'esempio che ho fatto all'inizio. Il locale sotto casa dei miei amici, che non voleva insonorizzare, perché non voleva farlo, non voleva farlo, non voleva spendere, sono dovuti andare in tribunale, alla fine hanno insonorizzato e tutti felici e contenti. Questo mi sembra non si può fare, è un nodo. Poi si può parlare intorno al fatto degli assembramenti per strada, quello è un altro punto e parliamone, però spesso e volentieri si tratta proprio del fatto di rispettare le regole che ci sono, e su questo ascoltatore non aveva tutti i torti, secondo me. Poco, no. In più c'è il fatto che, non potendo fumare dentro nei locali, diventa anche difficile continuamente dire state dentro nei locali, perché si fuma a turno, esce solamente uno e tutti gli altri guardano, è difficile. Anna da Roma, buongiorno. Buongiorno. Sì. Volevo dire riguardo il personaggio, secondo me era Renzi. Perché? Quando ha detto la ricreazione è finita. Ma come? Ma questa è una cosa che nessuno vuole sentirsi dire. No, ma riferito ai politici. Sì, no, stavo scherzando, signora, mi scusi. Cioè, nel senso che l'ha detta a uso e consumo nostro, non dei politici. Ah, ok. E grazie, quindi in questo... buongiorno. Grazie. No, ma io stavo commentando. Deve aver intuito che non era, che non aver vinto. Sì, sì, non era Renzi. Vabbè, diamo un altro indizio. È un politico, il personaggio della settimana, che ha detto una cosa che tutti volevano sentirsi dire, è straniero. Straniero, straniero è questo anzi, mettiamola lì, vai, è olandese. Ah beh, basta. A questo punto basta. Milena da Acqui Terme, buongiorno. Io volevo intervenire per un suggerimento in favore di Sanremo. Sì. Allora, secondo me ha perso di interesse da quando ci sono tutti questi nuovi giovani, ragazze, ma noi persone dai 50 in su, insomma, io ne ho 60 anni. Ma scusi, signora, ma in che senso chi sono questi nuovi giovani? Dire, tutte queste nuove ragazzi che noi di un'età, insomma, dai 50 in su non conosciamo, conosce poco. Ma mi sembra che il problema del festival non è esattamente, mi scusi se mi permetto, e mi sembra il contrario, nel senso che l'ospite più giovane al festival credo che avesse 75 anni. No, no, io volevo suggerire l'abbinamento, anziché far cantare due volte dallo stesso giovane, abbinare un cantante, insomma, un cantante più conosciuto, o italiano, straniero, anche se questo è il festival della canzone italiana, certo. Non è, insomma, abbastanza interessante. Guardi, Milena, scriva una bella lettera a Fazio che si candida Fare il prossimo festival di Sanremo, così le dà un suggerimento. Ma, e comunque direi che sta andando molto nella sua direzione, nel senso che ha fatto un festival geriatrico. Buona giornata, grazie Milena. 800 24 00 24. Allora, ripetiamo gli indizi per il personaggio della settimana. È un politico, è un olandese, ha detto in qualche giorno fa una cosa che tutti volevano sentirsi dire. Adesso invece andiamo in Portogallo. Si può fare all'estero. Gente muore per la strada, gente grida disperata. Il giorno dopo tutti in chiesa per la grazia ricevuta. Tu bastardo, tieni i soldi. Noi sfigati, gli umiliati. Tu bastardo, tieni i soldi. Tu bastardo, tieni i soldi. Noi sfigati, gli umiliati. Tu bastardo, tieni i soldi. Allora, mentre aspettiamo interventi all'800 24 00 24 per vincere anche oggi il personaggio della settimana, la notizia che viene dal Portogallo è questa: chiedi lo scontrino e ricevi un biglietto della lotteria. Ogni settimana in palio, credo, delle auto di lusso o cos'altro. Lo chiediamo a Marcello Sacco, un collega giornalista, tra l'altro traduttore, che vive in Portogallo, collabora con l'Espresso, tra gli altri. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno. Allora, qualche settimana fa avevamo visto la notizia del tutti i miro in vendita per sanare i debiti della banca del Portogallo. E già, insomma, sappiamo che è un po' come qua, anche lì non siete in buone acque. Poi adesso questa settimana invece la notizia è questa. Questa è proprio un si può fare, cioè la lotteria associata agli scontrini. Intanto ci confermi che esiste questa cosa qua? Sì, esiste, tra l'altro è oramai ufficiale, è uscita sulla Gazzetta Ufficiale proprio pochi giorni fa, questa settimana. Ah. Quindi c'è questa lotteria che partirà ad aprile. Sì. E ad aprile verranno sorteggiate le fatture di gennaio e poi così via. Ci sarà un sorteggio settimanale, anche con a quanto pare una certa copertura mediatica, insomma, sorteggi in televisione, una cosa abbastanza grossa. Quanto ai premi, devo dire che all'inizio si parlava addirittura di elettrodomestici vari, ma poi si è parlato di auto di lusso. Adesso parliamo di auto, insomma, magari non di lusso, però insomma. intorno ai 40.000 euro di valore. Beh, ma come funziona? Nel senso che è retroattivo, lo fanno su tutte le cose, gli scontrini che sono stati emessi da gennaio? Viene fatto su tutte le fatture che hanno un codice fiscale, il codice fiscale del cliente, sì. Quindi il cliente non riceve un biglietto della lotteria, però sono i dati che poi vengono elaborati e per ogni 10 euro di spesa, quindi una fattura di 50 euro, dà diritto a 5 coupon che verranno fatture sorteggi. O scontrini? Fatture. Beh, sai, il confine è sottile perché anche in Italia lo scontrino a volte riporta il codice fiscale. Sì, deve esserci il codice fiscale del cliente. Questo serve un po'. Quindi è tipo le fatture, molto più. Nel senso che non è lo scontrino che io vado al bar, prendo un caffè, perché di solito non lascio il codice, non lascio la partita IVA. Non è lo scontrino del bar, però sì. Per esempio, Marcello, in farmacia, già in Italia, se tu vuoi scaricare, lasci il codice fiscale. Esatto. Non so se è la stessa cosa in Portogallo. Di questo genere parliamo. Certo, sì. Però è interessante perché quindi non è che io ho già preso il mio scontrino e sto lì ad aspettare se esce il mio numero, ma che proprio ci si ritrova tutti davanti alla televisione con tutti gli scontrini di tutti gli ultimi tre mesi. Sorteggiato. Esatto, interessante questo. È un'idea che i portoghesi sono andati a prendere in Asia, dove la febbre del gioco è sempre molto alta, anche in Brasile pare che funzioni da un po' di tempo, quindi ma l'avevano proposta anche qui in realtà. Ma il fatto, la cosa buffa è questa, che in Italia se ne è parlato, qualcuno ha provato a proporlo, però poi come sempre ci fermiamo in lunghe, eterne discussioni, tavole rotonde, talk show, se si può fare o non si può fare. Io non so quali sono eventualmente le controindicazioni di una roba del genere, però poi siamo rimasti così, fermi sul dibattito. Invece in Portogallo poi zitti zitti, perché c'è anche lì evidentemente un problema di evasione, Marcello. C'è un problema di evasione, sì, uno studio del Parlamento europeo riferito al 2012 parlasi di 12 miliardi, di un calcolo di 12 miliardi di evasione fiscale per il 2012, che è una cifra notevole, soprattutto per un paese piccolo come il Portogallo. Il Portogallo in questo momento è soggetto a un programma, no, di risanamento, di bailout. 12 miliardi è quello che i portoghesi hanno dato, o la Troica ha dato, soltanto alle banche, quindi sarebbe una cifra che basterebbe a risanare la situazione delle banche portoghesi. È abbastanza grosso e si spera che in questo modo, insomma, aumenti quasi del doppio il numero dei clienti che chiedono regolarmente la fattura in un negozio, al ristorante, dal parrucchiere. Prima di chiudere sulla questione della lotteria, adesso facciamo una pausa per il traffico, intanto ti rilancio la palla sulla questione dei Miró. Non ho capito se poi l'asta di questi quadri Miró, che il Portogallo aveva appunto messo in vendita per incassare un po', visto i problemi economici di cui ci parlavi, se poi l'hanno fatta oppure no. Facciamo una piccola pausa però, traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Interrompiamo momentaneamente il collegamento con il Portogallo perché dobbiamo fare un ascoltatore. Vediamo se abbiamo la risposta del personaggio della settimana, Romilde, che ci chiama da Chieti. Romilde? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La risposta qual è? Per me il giornalista americano Alan Friedman. Ah, non le chiedo neanche perché tanto è la questione famosa dello scoop su Napolitano alle consultazioni, però non era lui. Grazie Romilde. Aggiungiamo a questo punto, siamo davvero in chiusura, se no non facciamo vincere, mi dispiace, sarebbe la prima volta. Un altro indizio: è un politico olandese, ha detto una frase che tutti volevano sentirsi dire in settimana, una frase che riguarda i vincoli economici europei. L'abbiamo scelto più difficile questa settimana. Oggi è veramente difficile anche nel nome, il personaggio non è noto, il nome è anche difficile nella dizione, non so come riusciranno a pronunciarlo, però è questa la cosa. Vediamo se ci arriviamo negli ultimi scampoli con Marcello Sacco, però dal Portogallo. Stavamo commentando e la lotteria sugli scontrini e la questione dei Miró. È stata fatta l'asta? L'asta non è stata fatta, a febbraio è stata sospesa perché qui in Portogallo l'opposizione si è opposta ovviamente anche in tribunale quindi Cristi si è ritenuto che non ci fossero le condizioni di serenità sufficienti per poter procedere all'asta. Però la notizia di questi giorni è lo Stato portoghese, il governo perlomeno in questo momento ha intenzione di vendere assolutamente i Miró e a quanto pare si rifarà all'asta a giugno, però ancora tutto molto, insomma, io non ci scommetterei in questo momento, ancora tutto molto un discorso molto aperto, vedremo. Ma le argomentazioni dell'opposizione quali sono? Cioè è, diciamo, il classico non possiamo svendere il nostro patrimonio culturale? Le argomentazioni sono quelle, sì, non possiamo svendere, non ne vale la pena, diciamo che anche dicono alcuni esperti di aste di questo tipo che comunque vendere i Miró così all'ingrosso, sono 85 opere, comunque li svaluta anche, diciamo, anche dal punto di vista tecnico della vendita di un'opera d'arte, la cosa potrebbe essere fatta meglio, potrebbe essere gestita meglio. Poi in questo momento comunque sono dei quadri famosi, è una collezione di Miró praticamente unica musica, se si esclude ovviamente quella della fondazione che è a Barcellona, e poi ovviamente sì, si tratta di patrimonio dello Stato, e addirittura pare che, ed è questo che il Tribunale poi dovrà decidere, anche il modo in cui sono stati esportati, sono stati fatti uscire dal paese, non è pulito. Certo. Tutto vabbè, questo, dà anche un po' ovviamente la sensazione che sia un grattare il fondo del barile, diciamo, questa sensazione. Sì. Ma è quello con cui sono le prese un po' tutti, certo, tutti gli stati. Poi naturalmente alla politica di decidere. Grazie comunque a Marcello Sacco, grazie per essere stato con noi dal Portogallo. Beh, insomma, le notizie non mancavano, comunque poi almeno vedi, ci provano. Questo della lotteria associata agli scontrini fiscali, non credo che abbia delle controindicazioni, non fa male a nessuno. Ma non lo so, però se ne è parlato tanto in Italia, perché si voleva farla, però io mi ricordo che si voleva farla su tutti gli scontrini, perché è molto diverso farlo sulle fatture, a meno che loro non abbiano, che mettono il codice fiscale anche quando arriva l'idraulico in casa. C'era stata un'iniziativa in una città, Crotone, promossa dal sindaco su questo, chissà che fine ha fatto, magari settimana prossima la recuperiamo. Sentiamo qualche ascoltatore, il personaggio secondo me non lo indovinano, era troppo difficile, anche se un politico olandese che ha detto una frase che tutti volevano sentirsi dire sui vincoli economici europei, a questo punto la risposta è già fatta. Raccontare un piccolo segreto, sveglia, esiste Google, così per dire. Sì, dai, Rodrigo da Venezia intanto, buongiorno. Sì, Rodrigo? Mi sente? Sì. Sentiamo forte e chiaro, cosa voleva dire? Allora, no, dicevo che a proposito della lotteria vincolata allo scontrino o alla fattura, io vengo da un paese lontanissimo che è il Cile, e fino al momento del colpo di Stato ogni mese c'era la lotteria vincolata alle fatture. Vede? E poi dopo c'è stato il colpo di Stato, quindi sta dicendo. Quindi non porta bene. I vari Pinochet, Kissinger, Nixon, e la nostra civiltà è andata a remingo. Però quando io sono giunto in Italia nel 74 mi portavo il codice fiscale, che qui ancora non c'era, perché mi domandavano che cosa era questo RUT, ROL unico tributario, si chiama ancora in Cile, che era vecchio degli anni 40. Però adesso non c'è più la lotteria con gli scontrini? No, perché il neoliberismo, il modernismo, non so che altro possiamo aggiungere, hanno in qualche modo danneggiato molto la civiltà. Grazie nostra, Rodrigo, dobbiamo fermarci qua. Bella questa apertura dal Cile. Siamo in chiusura, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione, Camilla Tomadini in assistenza in diretta, Carmelo Lauricella in regia. Eccolo, Giorgio De Luca è apparso, inizia ora la sua giornata Radio 24. Se qualcuno indovina il personaggio vince lo stesso anche se non è andato in onda. A sabato prossimo, ciao a tutti, da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizi.